Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. La penna è davvero più potente della spada. E oggi qui io dico davanti a quest'aula che l'avviso di garanzia non è mai una condanna, dicendo all'assessore dei 5 Stelle di Livorno che noi non chiederemo le sue dimissioni perché è stato indagato, perché crediamo nella Costituzione e crediamo nei processi che si fanno nelle aule. Codici delle leggi, non i codici di un software per decidere chi è colpevole. E se devo essere giudicato, vengo giudicato dai magistrati con le sentenze, non dai blog con una password. Per la superficialità con cui sono intervenuti alcuni senatori che non voglio neanche citare, che non vi è alcuna ipotesi di corruzione che riguarda questo governo. Credo che l'unica ipotesi di procedimento penale che nascerà da questa vicenda sarà quella su cui vi chiameremo a rispondere della diffamazione nei confronti del Partito Democratico e su cui spero che rinuncerete all'immunità parlamentare, voi cittadini. Voi cittadini. Lì vedremo chi è condannato e chi no. Il momento è epico e Matteo Renzi, di fronte all'ennesima richiesta di sfiducia respinta dal Senato, si lancia in una intemerata battaglia contro il giustizialismo, contro questo uso delle indagini per dire dimettetevi, andate via, andate a casa. L'abbiamo già sentita questa. La barbarie del giustizialismo. Babbarie. Queste sono babbarie, diciamo sinceramente. La prima una B, la seconda con due B. No, per lui non sono tutt'altro che babbarie. Tanto che oggi, ragazzi, sembra essere ripiombati nell'era piena berlusconiana. È innegabile, perché c'è Davigo, magistrato di mani pulite, diventato da poco presidente dell'ANM, che fa un'intervista con Il Fatto Quotidiano e con Marco Travaglio, il direttore. E in questa intervista Davigo, poi la leggeremo in rassegna stampa, dice: basta, la politica la smetta di delegare ai magistrati la scelta dei propri eletti e poi lamentarsi pure quando vengono condannati. Siamo tornati alle battaglie epiche tra politica e magistratura, oppure non ne siamo mai usciti, non lo so. Buongiorno a tutti da Monteveglio, ci saluta Marco, dà anche un bacio a Paola La Rossa, ma non lo so, è consentito? E da mezzanotte la radio sì, diventa... Sì, che è consentito, Paola... ma buongiorno. Vabbè, insomma, adesso con un pizzico di gelosia me lo puoi anche... Assolutamente, è consentito, lasciare. Buongiornalino, solo se Alessandro Milan dice si può fare. Vabbè, dai, si può fare. Ma in questo caso... Vabbè. Ci saluta anche Luca dall'Oltrepò Pavese. Eccolo qua, c'è anche il nostro direttore Luca Dini. Buongiorno, buongiorno. Luca dall'Oltrepò, Luca non Luca Dini, ma Luca dall'Oltrepò Pavese dice che è dalle 5 che aspetta con la radio accesa. Vabbè, si è messo un po' in anticipo, lievemente in anticipo. Salutiamo io anche... invece dall'Oltretomba. Perché dall'Oltretomba? No, vabbè, niente. Ah, no, perché dall'Oltrepò, dall'Oltre... vabbè. Oh, no, ti sei svegliato da un secondo? Esatto, è per quello, mi sono abbattuta sull'Oltrepò. Ah, vabbè. Scusate, ma c'è questo... Io non conosco un ignorante. Buongiorno, ci saluta Lino da... David D'Aleva. Ma cos'è? Lino da David o Lino e David da Leva, ma aiutateci a capire, scrivete Leva. Leva è un paese? Esiste Leva? Leva. Googliamo. No. Googliamo subito. Ma bello, ma sentite questo messaggio, ci saluta Mina da Hong Kong, dalla pausa pranzo. Wow. Hong Kong, un bacio, wow. Un bacio a Paola e al direttore. Un caffè, che Mina, bello. Buongiorno, vedi, che bello. E vabbè, e visto che è pranzo, buongiorno anche da Gorgonzola, ci saluta Ranieri. Ranieri da Gorgonzola. Da Gorgonzola, vabbè, adesso con non un è che... filo di miele accanto. Esatto. Meraviglia. Infine finisco con lui, Federico da Modena. Buongiorno Milan e buon bombardino a tutti. Ebbene, il bombardino di Peter Bescapè in regia, si sa, immancabile. L'alpino, il nostro alpino Peter Bescapè insieme a Lorenzo Nespoli. La squadra è ricompatta, la squadra è composta. E allora qui 24 mattino può partire ufficialmente con l'apertura del Parlamento. Dai. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Vabbè, questo lo devo leggere perché insomma c'è gente luciana che insomma si sente poco bene e dice buongiorno al mio idolo Luca Dini dal lago di Garda. Vabbè, ragazzi, cioè... perché si sente poco bene? No, vabbè, una battutaccia così. Era una battutaccia perché siccome si è appena svegliato volevo svegliarlo un po' di più. Già, anche perché oggi mi ha fatto una di quelle copertine di Vanity Fair, poi la vedremo, le classiche copertine che devo studiare. Io ripeterò a pappagallo, anzi faccio vedere a Lorenzo Nespoli. Lorenzo, guardami un po' chi è questo. Tu lo sai, Chris Hemsworth. Anche Lorenzo Nespoli è un pochino in difficolta. Attenzione, è ufficiale. Devi guardare in alto. Ah, perché c'è un gattone sulla... C'è un gattone, è il primo gatto in copertina di Vanity Fair. Questo è il primo gatto, cioè uno non deve guardare questo bel manzetto sotto. Assolutamente no. Deve guardare il gattone. Lui è un supporto del gatto. Lui è un supporto emergente. Vabbè, insomma, manteniamo il mistero e diteci voi chi è secondo voi Chris. Fisicamente un supporto del gatto. Ecco, è un particolare di Luca Dini, Chris Hemsworth. Dai, scriveteci e diteci perché insieme al gattone è in copertina di Vanity Fair e poi vince chi vince? Lorenzo Nespoli arriva e dice è un attore. Questo è riuscito a dire è un attore dopo essersi eclissato ovviamente e avvicinato a un computer per 2 minuti. Ha detto è un attore, questo è riuscito. E questo l'abbiamo capito. E va bene. Manteniamo il mistero. Signori, qui c'è la disfida tra politica e magistratura. Cara Paola La Rossa, sei pronta a ripartire? Assolutamente, prontissimi, ammesso che fosse mai finita questa, sì, esatto. Neanche di sfide, insomma, si arriva a discussioni che porteranno al risultato. Tu conosci il mio animo esasperatamente ottimista, sì. E quindi insomma sono discussioni, io dico sempre c'è democrazia, signori. Evviva, se ne può discutere e quindi se ne discute. Il tema è quello sempre delle intercettazioni che danno fastidio a qualcuno quando vengono pubblicate. Devo dire che io qua chiedo, tu direttore, le pubblicheresti? Vabbè, dai, su Vanity Fair ovviamente non sì, è che pubblicate sì. Le intercettazioni, ma le pubblicheresti le intercettazioni? Non so, per esempio, sentite cosa dice Davigo. Davigo dice questo: guardate che a volte alcune intercettazioni sono rilevanti per il difensore. Per esempio, Tizio viene intercettato e racconta la sua serata con un trans. Tutti dicono orrore, privacy, bruciare tutto. Già, e se poi quella serata col trans serve a uno dei due interlocutori come alibi per provare che la sera del delitto era altrove, beh, questa è un po' tirata per vabbè, i capelli. Mi sembra lunare, dai. Onestamente, dai. È un po' esagerata, forse. Però pubblicare tutto? No, pubblicare tutto no. In Italia viene fatto regolarmente. Io onestamente lo trovo barbaro, non parlo di tanto dei ministri o delle persone potenti. Io ricordo che cioè, purtroppo diciamo c'è un vizio soprattutto di alcune procure, memorabile quella di Potenza, diciamo. Ecco. Sì. Però io mi ricordo all'epoca di Vallettopoli, ci sono persone che sono state segnate, distrutte, sputtanate per motivi irrilevanti da qualsiasi punto di vista. Non parlo di persone potenti. Anzi, in genere, quelle più potenti magari riescono. E chi è che ha chiesto scusa? Chi ha pagato? Cioè, non c'è mai responsabilità nello sputtanamento e nel danno che si fa alle persone. Scusate il rumore, si capisce forse che sono. Ma dove sei? Fuori. Sto andando al lavoro a piedi. Cioè, praticamente ti sei svegliato, no. No, è bellissima questa cosa. Ti sei svegliato due minuti fa e sei stato Luca cacciato fuori di casa. Chiama? No, esatto, sei stato. Io vado sempre a lavoro a piedi, a proposito di trivelle. Ecco. Ma è meraviglioso. Ecco, sempre a lavoro a piedi. Cioè, dire, ma tu sei riuscito a quest'ora a piedi per andare a lavoro? Ovviamente, se incontri qualcuno che tu ritieni interessante. Vabbè, ma splendido. No, okay. Tutti quelli che ci ascoltano stanno andando al lavoro da qualche esatto. parte. Esatto, bravo. No, ho capito, sì, no. No, non fare come me che si lamenta per la sveglia, guarda, porta malissimo, ti insultano, anzi, ti insultano parecchio. Anzi, vorrei svegliarmi 2 ore prima, dai. Adesso, vabbè, adesso scopriamo quest'animo al nostro delle uffie. Ha quest'animo anche un po', ha un animo un po' masochista, Luca Dini. E se trovi ovviamente qualcuno passeggiando che ritieni sia titolare di poter intervenire in diretta a Radio 24, ovviamente sei il nostro inviato, fai non pure. Cioè, devo dire, molta gente a piedi a quest'ora a Milano non c'è, a proposito di trivelle. Vabbè, insomma, però se magari trovi un edicolante, eccetera. Vabbè, Paola... tornando al tema, sì. Ci sono delle cose rilevanti e delle cose irrilevanti. Purtroppo si eccede in quelli irrilevanti perché sono morbose, fanno notizia, sono divertenti, però... E poi gli effetti collaterali, i danni, i feriti, i morti, chi se ne frega. Questo è parte. No, ma devo dire che effettivamente un pizzico di voyeurismo c'è. Dai Paola, leggere della sguattera del Guatemala serve per però, fare colore. Però arriverà, secondo me, si arriva ad una definizione più precisa. Del pubblicabile e del non pubblicabile, insomma, voglio dire, il dibattito è talmente aperto, detto così sembra di quelle frasi fatte, no? Non ci sono più le mezze stagioni, ma il dibattito è talmente aperto che si arriverà ad una limatura, quantomeno, del pubblicabile e di ciò che non sia importante, non sia fondamentale, ecco, questo, non sia fondamentale pubblicare. Dopodiché il confronto... Sì, dico Luca, prego, scusami. Bisognerebbe rivedere cosa? No, bisognerebbe arrivare anche a una definizione del senso di responsabilità di chi apre l'indagine, di quanta possibilità che portino a qualcosa, perché c'è un po', diciamo, sì, certo. Il vizio. Apriamo il fascicolo intanto, poi... Sì, creiamo un po' di interesse mediatico, c'è anche questo, creiamo un po' di interesse mediatico. No. Paola, qui... E comunque, insomma, fa parte in ogni caso di un braccio di ferro o di una discussione tra politica e magistratura che... Noi giustamente ci concentriamo con la massima attenzione perché è quella del nostro paese, ma che credo appartenga un po', ribadisco, a tutte le democrazie possibili. Quando non ci sono discussioni di questo genere siamo messi male, ecco, c'è una simulazione di democrazia o non c'è simulazione nemmeno, insomma. No, questo assolutamente. Però se poi la magistratura chi sia da rivedere, prego Luca. No, devo dire, quando alla magistratura si pretende di lasciare il ruolo di cambiare le cose della politica, è perché la politica non c'è. Ah sì, su questo Davigo ha ragione quando dice avete delegato, magari insomma l'esempio del trans era un po' tirato per i capelli, ma quando dice delegate alla magistratura di fare il lavoro che dovreste fare voi, cioè selezionare, e qui fa un altro esempio molto molto forte Davigo, dice se il mio vicino di casa è indagato per pedofilia non gli affido la figlia, certo poi se viene scagionato si vedrà. Però devo dire c'è un po' l'atteggiamento del magistrato e del Davigo che è sempre stato, cioè a prescindere se c'è un'indagine vuol dire che uno qualcosa di male dovrebbe aver fatto. Non sempre è così, non sempre è così. Invece a volte c'è solo il fumo, però A volte, poi, esatto. Allora, però il concetto è ecco che la controinformazione, cioè l'informazione che stabilisca che quella persona non c'entrasse niente, manca. Dovrebbe meritare lo stesso la stessa attenzione dell'informazione iniziale. Mm. Anche questo è vero, Paola, hai ragione, perché tante volte è facile dire ed è scandalistico. Perché se il vicino di casa è accusato di pedofilia e poi tutto ciò che salta fuori, che il vicino di casa non fosse più, che tutta quella storia non fosse vera, allora deve avere la stessa attenzione mediatica, deve avere lo stesso, insomma ci fu un caso, non c'entrava niente, un'intercettazione, ma un caso clamoroso in cui un maestro come Enzo Biagi chiese scusa perché un padre che aveva portato la propria bambina in ospedale, una bambina morta poi di un rarissimo caso di tumore che aveva riguardato i genitali, divenne per 24 ore il mostro. Sì, credo, allora, credo anche di più di 24 ore, credo, ecco, che fu proprio anche indagato. Cioè, capisci? Allora, adesso io ho spostato il tema, non è un tema intercettazione quella, però... Ti stagiono in prima pagina. È quello che dice Davigo ed è rischioso, cioè vedere sempre e solo colpevoli a prescindere. Comunque, prima del traffico, devo dire saluti alla bellissima Paola Saluzzi, che ricordo quando venne a San Giorgio a Cremano 20 anni fa, e da vicino io che ero ragazzino rimasi senza fiato. Caro Paolo, ma puoi rimanere senza fiato anche adesso, anche se sono passati 20 anni, si può dire, cara Paola? Mi ha scolpito nel cuore e si sperava che il postino vincesse l'Oscar. Ecco. Andai lì per conoscere da vicino il mondo e la vita di Massimo Troisi. E invece Paolo conobbe te. E Paolo conobbe me. Allora Paolo, un bacio. Paolo 20 anni dopo, un bacio, grande bacio. E rimase senza fiato. Andiamo al traffico. A Milan, io voglio sentire il traffico. I grillini dicono che chi ha votato sì sono grillini. Non è vero un cazzo. Io ho votato sì ed sono di sinistra, sono renziano. Ho votato sì perché dovevo votare sì, mi sono spiegato. Alessandro Milan, sei un grande, ma se ti chiamavi Alessandro Roma era meglio. Grande Milan, continua così, ricordati che per ogni telefonata, ogni insulto ce ne sono 10 che invece gli piaci e che ti fanno i complimenti. Alino Milan, sono fiero di essere una ruspa, spero che tanti come me si sentano ruspe. Milan, ma t'ha capito Satnagot? Il Salvini parla con le ruspe perché i leghisti sono tutti ruspanti, no? Rom, rom! Beh sì, perché questa... No, ma perché voi non l'avete sentita forse ieri, ma ve la faccio risentire. Paola, cara Paola. No, ha fatto di meglio. Sapete che c'è il 2 per 1000 che si può dare ai partiti, no? Tu lo darai, Luca? Darai il 2 per 1000? No. Tu, Paola? Ci penso. Ci penso. Lo prendiamo come un no. Lo prendiamo con un no, perché poi dopo ospita tutti i responsabili dei partiti. Non si può fare. Allora, Salvini ha fatto lo spot per il 2 per 1000, dare i soldi alla Lega. E l'ha fatto, i protagonisti sono lui e... Ciao Ruspa, chi doni l'8 per 1000? E il 5 per 1000? E il 2 per 1000? Peccato, capito. Questo non costa. Hai capito, nulla. Luca? Il 2 per 1000 parla con la ruspa. Vrum, vrum. Dopo Banderas che parla con la gallina. Preferisco Banderas che parla con la gallina. Ruspa, a chi dai il 2 per 1000? Ed è un sì, ovviamente. Alla Lega. Come dice no una ruspa? Non lo so. No. Ci dai il 2 per 1000? No. Aiuto. Invece è sì. Sì, aiuto. Vabbè, comunque questo è il Salvini spot. Poi c'è il Salvini invece vero. Sì. Il corporante di Muggiano a Milano, dipendesse da me, sì, viene liberato e raso al suolo. Okay. Il campo rom raso al suolo. Vabbè, che devi fare? Raso al suolo. con il signor Donald Trump che sta camminando, non dimentichiamolo, lui, i confini col Messico, insomma tutte quelle cose lì. Va bene, ci ho detto, Alessandro Roma però è stata quella che mi ha fatto ridere. Alessandro Roma. Alessandro Milan, ma era meglio che si chiamavi Alessandro Roma. Vabbè. Ma in tutto questo, tutto questo, contiamo i passi di Luca Dini, dove è ma arrivato? Infatti Luca Dini, dove sei? Raccontaci la mia... Sono in Piazza Missori in questo momento. Ha capito, Piazza Missori nel cuore di Milano. C'era un tram effettivamente, spostati perché quelli non hanno sempre la precedenza, anche sui pedoni, hanno sempre la precedenza. I tram hanno sempre la precedenza, è la prima cosa che ti insegnano quando fai. Sapere del gatto, però scusate. Adesso Caterina che chiede lumi. Adesso ce lo diciamo il gatto. Prima vi voglio far sentire Di Battista che lotta con i congiuntivi. Attenzione, Di Battista, Movimento 5 Stelle. Deputato migliore, io non l'ho interrotta. Se vogliamo stiamo d'accordo, lei non mi interrompe, io non la interrompo. E stiamo d'accordo. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi dà del tu? No, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo? Sì! Aspetti! Che detto non mi interrompo. Le manovre finanziarie. Scrivino, non mi interrompi, ma insomma, va bene tutto, dai, vabbè, è così. Allora, nella foga del discorso. Il gattone, devo dire... Che non vediamo se qualcuno ci ha scritto. No, subito me li sono persi perché sono in fondo. Ma porca miseria. Ma come Milan? Hemsworth ha interpretato Thor. Saluti da Palermo, Eugenio. Ma dai, Thor! Di Thor! Tutti, Simone da Reggio Emilia. Bastava dire Thor e noi capivamo. Esatto. Voi capivate. E perché c'è questo gattone che Caterina è curiosissima? No, è il suo gatto, però è un gatto molto bello, devo dire. Quindi ce l'ha in testa sostanzialmente, un po' come Conte, però è meglio. Luca! Allora faccio la foto del gatto di Conte, cioè di Conte in testa a Hemsworth. Allora, no, vabbè, lo metto in questo momento su Vanity Fair. Tu, Paola Saluzzi, tira un attimo la coda a Caterina, che così ci fa un editoriale. No, Caterina se n'è andata indignata. Si è allontanata. Esatto, direttore, questo volevo dire. Caterina è già pronta per andare in edicola. Però in compenso Caterina dorme sulla mia testa quando dormo. Cioè, ogni tanto la mattina io mi sveglio col colbacco bianco. È un po' Paola Saluzzi e l'Antonio Conte di Radio 24. Io non so che cosa abbiate messo nella vostra colazione stamattina, tutti e due. Siete due delinquenti. Va bene, allora lo sto twittando in questo momento. Sto tirando dentro. Ecco il gatto di Thor. Va bene. Aspetta, che mettiamo anche avanti. Di qualcosa, Paola. Che sto scrivendo. Sono un uomo, sto scrivendo e non riesco anche a parlare. Fa due cose con te. Se un uomo non riesci neanche a parlare, io dico che questa mattina, allora, con il direttore Luca Dini, che un istante prima sembrava in pigiama, e poi abbiamo scoperto essere così pronto a camminare. Forse va a lavorare in pigiama. Forse non lo so. Siete pericolosi tutti e due. Sappiatelo, se state ascoltando, sapevatelo. Sì. Andiamo accanto uno con l'altro, due ragazzi pericolosi. Attenti a quei due. Va bene, benissimo. Questo ho appena, è il mio commento. Ti ringrazio. Ho appena twittato: sono il gatto di Thor. Cioè, ecco il gatto di Thor. Effettivamente è un gatto magnifico. È più bello il gatto di lui. Devo dire questa cosa. Paola, tu alle 15 che fai di bello? Allora, io sono su tutti i temi di cui abbiamo parlato finora. Poi viene a trovarci Parisi e si comincia a parlare della corsa per il sindaco a Milano. Esatto. Si comincia, non l'abbiamo mai smesso, ma insomma. E va bene. Parisi sarà il nostro ospite. E allora, se volete conoscere il gatto di Thor, oltre ovviamente ad altre cose su Vanity Fair, trovate in edicola. Il nostro Luca Dini è andato al lavoro. Non ho capito perché è andato al lavoro oggi alle 6:54 del mattino, quando il numero è già uscito, ma sono misteri che ci porteremo così per il corso della giornata. Intanto vi mando un abbraccio, come sempre, alla prossima. OneExpress.it. Pallet Network italiano che viaggia in Europa vi presenta 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ecco.